Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, figlioli, se sapete che Dio è giusto, sappiate anche che chiunque opera la giustizia è stato generato da Lui. Vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso. Chiunque commette il peccato commette iniquità, perché il peccato è l'iniquità. Voi sapete che Egli si manifestò per togliere i peccati e che in Lui non vi è peccato. Chiunque rimane in lui non pecca, chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. Oggi mi sono soffermata sulla prima lettura, non sul Vangelo, ma sulla prima lettura della messa di oggi, che è tratta dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. E sappiamo che le lettere di San Giovanni sono tre. E queste lettere, non, più che lettere, sono praticamente delle omelie, infatti non si parla né dei destinatari né del mittente, quindi sono degli scritti che denotano proprio un insegnamento che viene impartito dall'Evangelista e quindi sono come delle piccole delle omelie. E in questa lettera Giovanni insiste molto su un concetto. Qual è questo concetto? Quello che noi siamo figli di Dio e che chi è nato da Dio non commette il peccato, chi rimane in Dio non commette il peccato. Che cosa vuole dire? Certo, non vuole dire che noi siamo impeccabili, non vuole dire che noi non faremo mai del male perché siamo figli di Dio. Ma vuole dire che chi rimane in Cristo ha già la certezza di aver sconfitto il male, cioè anche se ovviamente qualche volta cadrà perché tutti siamo peccatori, tuttavia chi rimane in Cristo, chi è nato da Dio, ha la certezza della vittoria. E questo è meraviglioso, perché? Perché anche se la vita è una lotta, anche se la vita è una battaglia, sapere e avere la certezza che vinceremo ci dà la forza di combattere con entusiasmo e addirittura con gioia. E quindi oggi vogliamo rivolgere la nostra attenzione a Gesù, particolarmente al suo nome. Perché? Perché nel passato c'era una festività vera e propria che si chiamava la festa del nome di Gesù ed era proprio il 3 gennaio, o meglio, è stata spostata diverse volte. Poi Giovanni Paolo II l'ha ripristinata e adesso è diventata una memoria facoltativa, che vuol dire che in alcune chiese viene celebrato questa liturgia del nome di Gesù, la festa del nome di Gesù, però non è obbligatoria, per cui in alcune chiese non se ne fa menzione alcuna. Comunque io oggi ve la volevo citare invece, è questa festa del nome di Gesù. Perché? Perché è molto collegato a quello che stavamo dicendo prima, chi rimane in Cristo non commette il peccato, o meglio, chi rimane in Cristo è certo della sua vittoria contro il male, contro il peccato. Perché? Perché rimanere in Cristo vuol dire proprio avere sulle labbra il suo nome e non solo sulle labbra, avere nel cuore il suo nome. E il cuore, il nome della persona è avere la persona stessa nel nostro cuore, perché il nome per gli ebrei indica proprio l'identità della persona stessa. Allora oggi vorrei invitarvi a fare questa esperienza, perché Provate quando pregate, ma anche quando tra un'azione e l'altra, o anche quando fate soltanto azioni materiali che non richiedono chissà quale attenzione, provate a pronunciare il nome di Gesù. Gesù vuol dire Dio salva e vedrete che questo nome vi darà una pace incredibile, perché il nome di Gesù porta tranquillità, porta pace, porta gioia, porta salvezza, porta armonia, porta amore. Perché? Perché il nome è proprio l'identità della persona stessa di Gesù e Gesù è tutto questo. Allora, oggi cerchiamo di nominare di più Gesù, e anche perché spesso quando preghiamo non lo nominiamo tanto Gesù e questo non nominarlo ce lo rende lontano, invece il nominarlo ce lo rende presente, vicino, e sappiamo a chi ci stiamo rivolgendo, altrimenti rischiamo di pregare senza di dire preghiere senza pregare. Appunto, la nostra preghiera diventa vuota. Perché? Perché è assente colui al quale ci stiamo rivolgendo, nemmeno abbiamo presente la persona a cui noi stiamo rivolgendo la nostra attenzione. Allora, cerchiamo oggi di rimanere nel Signore, soprattutto pronunciando il suo nome e avendo consapevolezza che il suo nome è salvezza, perché il nome di Gesù vuol dire Dio salva. Per concludere questa riflessione vorrei citarvi un aforisma che dice: chi ama torna, no, chi si pente torna, chi ama resta. Buona giornata.